I'll take the legs from some old table. I'll take the arms from some old chair. I'll take the neck from some old bottle. And from the horse I'll take the hair. I'll take the hair. I'll take the hands and face from off a clock. And baby, when I'm through, I'll get more loving from that dumb, dumb dummy than I ever got from you. Baby, you look better till I wake your towel. Baby, you look like so till I wake your sedja. Baby, you look quattro till I wake your botilla. Et di la cavato, mi big la capita, mi big la capita, mi big lo mane, e lo faccio della roccia. E bacciotto, quando finio, e poi mi viene che io amore di una stupida papa pupa, che io sa di mi viene di te. Tavola, mi piglio l'azzo della vecchia sedia, mi piglio quattro della vecchia bottiglia, e di lo covato, mi piglio capito, mi piglio capito, mi piglio mani e lo faccio della roccia, e perciotto, quando finio, oh, I'll get more loving from the dumb, dumb, dummy than I ever got, believe it or not, that I ever got, believe it or not, from you.